Noi abbiamo nei giorni scorsi notato che in rete circolava questo evento di presentazione di questo fumetto dedicato a Sergio Ramelli, militante di un'organizzazione fascista a fronte della gioventù negli anni 70, ucciso appunto in quegli anni. Abbiamo notato questo evento con degli ospiti illustri, diciamo così, nell'ambiente dell'estrema destra bolognese e non solo. Quindi Massimo Mazzanti, ex MSI e candidato sindaco per Casa Pound a Bologna, Gianni Correggiari, che è stato vice segretario nazionale di Forza Nuova, Federico Goglio, che è un cantante di un gruppo che si è reso noto sempre nelle commemorazioni per Ramelli a Milano, per i suoi saluti romani, insomma, e l'invocazione e l'invito a farli a tutti quanti presenti, e Alessandro Pellegrini, che è un avvocato molto noto per essere il difensore di Ciavardini, che è stato condannato per la strage di Bologna, oltre che essere uno che ha dichiarato che Federico Dorovandi è morto per un mix letale di droghe e alcol e non per le botte della polizia, Facci di Forza Italia, anche lui non ha bisogno di presentazioni, e poi arrivo all'ultimo, che è un soggetto davvero singolare, che è l'autore del fumetto, che si chiama Marco Carucci. L'autore è stato segretario di Forza Nuova a Milano, è stato alla ribalta giornalistica per aver organizzato un rogo di libri per bambini che a suo avviso erano inneggianti all'omosessualità. L'iniziativa poi non si è svolta perché c'è stata l'opposizione di gruppi antifascisti e la questura aveva vietato il presidio, però stiamo parlando di questi soggetti qui. Quindi per noi naturalmente è inaccettabile che un posto pubblico di proprietà pubblica e oltre che istituzionale come il Baraccano, anche se in questo caso il centro sociale Baraccano, che comunque fa parte del complesso, ospiti iniziative di questo tipo che utilizzano ancora una volta la morte di un ragazzo diciottenne in maniera pietistica, diciamo così, per invece fare tutt'altro, cioè fare dei raduni fascisti, perché di questo si tratta. Avete parlato col presidente, quali saranno i prossimi passi e soprattutto si farà questa presentazione o non si farà? Ho presentato un'interrogazione ieri proprio sul tema, chiedendo appunto quali misure si intende mettere in campo e se la presidenza e la direzione del quartiere erano a conoscenza dell'iniziativa, che ricordo non è la prima volta appunto che purtroppo il Baraccano ospita iniziative del genere. Un mese fa c'è stato Francesco Storace e Alemanno, che hanno presentato la loro nuova organizzazione, e anche lì appunto si è fatto un utilizzo secondo me inaccettabile di un posto pubblico. Noi appunto abbiamo presentato questa interrogazione. Poco fa, a onor del vero, è uscita la posizione del PD, del centro-sinistra del Santo Stefano, quindi della maggioranza del quartiere, che condanna fortemente l'iniziativa. Quindi, rispondendo un po', diciamo così, alla mia interrogazione, scrive che non era nessuno nel quartiere a conoscenza dell'iniziativa, quindi vedremo cosa succederà. Io auspico, insomma, il buon senso di tutti e affinché questa iniziativa venga annullata o comunque venga impedita, perché, come invece già annunciato anche dalla BA, appunto, altrimenti saranno altri ad impedire lo svolgimento di questa iniziativa. Ecco, l'abbiamo annunciato e lo faremo nel caso in cui non ci sia il buon senso per annullarla. Iniziativa che si svolge il mercoledì sera a due passi dalla BA, che è attraversato da migliaia di persone che condividono i valori antifascisti, su questo non c'è alcun dubbio, quindi è anche davvero in questo senso una provocazione stupida e inutile. Ecco. E sì. Michele Facci, ex capogruppo di Forza Italia al Comune di Bologna, si è espresso in tema. Le sue dichiarazioni sono: grave l'opposizione di un soggetto politico come Coalizione Civica, e oltretutto si appella alla contraddizione tra il negare che si faccia una manifestazione simile e il farsi paladini di democrazia. Ma questa è la classica argomentazione che si utilizza in questi casi. Noi crediamo naturalmente nella Costituzione che vieta appunto, no, la riproposizione delle organizzazioni fasciste, l'apologia del fascismo. Non c'entra niente la libertà di parola in questo caso, perché appunto viene utilizzata in maniera strumentale. Forza Nuova è un'organizzazione che picchia gli immigranti per strada, un'organizzazione che organizza i roghi di libri, e appunto l'autore stesso lo ha fatto, quindi di quale libertà di espressione stiamo parlando, e soprattutto in un territorio che proprio in questi giorni ha visto quello che ha fatto Forza Nuova a San Pietro in Casale, minacciando le maestre della scuola che appunto facevano delle lezioni invece sull'uguaglianza di genere e quindi sulla libertà sessuale. Io penso che Forza Nuova non abbia, e tutti questi esponenti appunto che si legano a queste organizzazioni di estrema destra, non abbiano diritto di parola, soprattutto, lo ripeto, in un posto pubblico, in un luogo istituzionale, quindi che le facessero a casa loro queste iniziative, non nel nostro quartiere.